Buongiorno da Giorgio Pagano. Mancano 174 giorni e l'inglese non è più lingua comunitaria, ma media e politici sovranisti e faceti internazionalisti, per dirla con Spinelli, tacciono. L'impero anglofono delle menti non va messo in discussione, costi quel che costi, democrazia europea inclusa. Ma ipotizzando l'improbabile ruolo di una RAI a guida sovranista che si riappropri e rilanci il ruolo di media di Stato nel riprendersi quella sovranità linguistica e culturale ceduta in questi ultimi 60 anni, abbiamo chiesto a Paolo Morandotti di Iterradio cosa dovrebbe fare la RAI per l'internazionalizzazione della e nella lingua italiana. Forse la domanda è al di sopra delle mie possibilità, devo essere sincero. Però la RAI è identificata da tempo come il servizio pubblico in Italia, no? Certo. E il servizio pubblico ha delle caratteristiche. Noi nel nostro saggio abbiamo esaminato alcune di queste caratteristiche, soprattutto i principi, il principio di continuità, il principio di adattabilità. Tutto quello che serve a dare al pubblico di riferimento le informazioni di base per sapersi muovere nella società di oggi. E abbiamo concluso che la radio è lo strumento principale per realizzare le finalità che vengono attribuite a un servizio pubblico radiotelevisivo. Tu sai che non esiste una definizione univoca di servizio pubblico radiotelevisivo, no? Può essere anche vincolata a determinati obblighi o Certo. determinate aspettative stabilite di volta in volta dalla concessione che viene attribuita. Però a livello di studio nel mondo si converge verso alcune caratteristiche che poi possono anche essere superate dal mondo tecnologico, no? Dalle offerte che vengono a mano proposte. E tutti i media tradizionali hanno sofferto di fronte all'avanzata impetuosa di Internet. Solo la radio sembra essere rimasta in un certo senso immune dal processo di convergenza che viene indicato come unico, irreversibile, necessario, eccetera, eccetera. Ecco, noi non crediamo né che sia unico, né irreversibile, né totalmente necessario. È sicuramente un processo molto utile, ma va gestito all'interno di un sistema misto di comunicazione. Quindi ricordarsi che la varietà, la possibilità di accedere a più fonti di informazione, ricordarsi che la radio per sua natura nasce a un livello internazionale. Basterebbe leggere le pagine, sfogliare le pagine del Radio Corriere degli anni 20, degli anni 30, per accorgersi che la radio sin dall'inizio nasceva come uno strumento non nazionale, ma di più continentale come minimo e subito internazionale. E quindi offrire a livello di servizio pubblico un'alternativa alle fonti abituali che si trovano su internet che soddisfi dei criteri precisi, che sono soprattutto riassumibili nel concetto di terzietà, cioè essere indipendente, veramente autonomo, non dipendente da, non solo si pensa subito alla politica, ma anche da interessi economici, per esempio, da interessi culturali ben precisi. E quindi aiutare gli utenti a crearsi quegli strumenti culturali che servono a muoversi con, come dire, con cognizione di causa nel bombardamento di informazioni che Internet ci offre e che forse non sempre si riesce a gestire nel modo migliore. Quindi troppa informazione, tanto confusione, il servizio pubblico può diventare lo strumento per cui riusciamo a filtrare da questa confusione le informazioni che ci interessano, interpretarle, quindi riuscire in qualche modo ad avere una nostra visione ben formata della realtà in cui ci muoviamo. Il proseguo a Traslimen a mezzanotte e mezzo. A risentirci più tardi, quindi, da Giorgio Pagano.